Radio 10 K. Ora. Attenzione, binario 10 KK. Hola, chicos. Hola, hola, hola. Attenzione, binario 10, copiate Antonio il bombolo che fa chiamata K. Hola, chicos. Hola. Hola, hola, hola. Ce l'ho ricevito. Ehi, ciao, oh Claudio, buonasera, me lo dà un controllo? Ehi, buonanotte, buonasera, che controllo ti do io? Sto facendo il baracchino, se senti la nuova qua non ti posso dare il controllo. Ehi, KK, dai, sto provando una cosettina, sto provando, vabbè, se va bene. Sembra che vada bene, ma controllo affidabile non te ne posso dare. Santiago 9, sei qua, baracchino, dai. Gappa, gappa, ok. Andava così, dai. Io bene, ti sto arrivando. 6-9 e radio 5. Sì, ma col K, sì. Oh, negativo, sono con l'87. Mamma, ok. Sentiamo tu, che c'è l'ospite oggi, lo devo preparare, dai. A più tardi se coincide, ciao. Ehi, ciao, ciao. Oh, e tre, prova. Prova. Ma cosa sei bruendi? Oi, ciao Natali, buonasera. Oui, bonjour. Buongiorno. Bene, ti arrivo. Come? Bene, ti arrivo. Ho detto che ti faccio pagare lo smitter, no? Sto facendo una telefonata, mi aspetti 5 minuti? Sì, già sono qui. Hola, chicos. Hola, hola. Ehi, a Natali. Asco, qualcuno che ci abbia un K da vendere, lo sai? Oh, non lo so, io ho il mio, ma no, non so altro. Hola. Va bene. Perché il ricevitore non ne ho trovato e mi volevo comprare uno di quelli così, tanto per ascoltarmi, non per usarlo, solo per ascoltarmi. Se... boh, non lo so, Nodra Tari. Hola, chicos. Minchia, guardo, vi dico, io c'ho il mio, ma non lo so se c'è qualcuno che lo vuole vendere, boh, non lo so. E tu informa. Informerò. Saturo sono, Natali. No, negativo. Già va bene, dai. KK. Boh, adesso mi informerò. Io non lo so. Ma già si trova comunque, la verità. E vabbè, ci sentiamo dopo al limite, dai che sto facendo cose. Gappa Natali, dai, ci sentiamo. Chicos!